Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Sulla linea il colpo di testa di Paolo Isidoro, pericolosissimo il colpo di testa, è di Leandro, parato. Io ancora i brividi, oggi compie 75 anni Dino Zoff, quindi apriamo così, gli facciamo gli auguri. Diventato santo con quella parata nei secondi finali di Italia-Brasile 3-2, carissimo Pier, ciao. Ciao, io... Quanti anni avevi? Chiaramente... Bene, avevo 8 e mezzo. Era un po' avevo più grandicello. Però adesso non l'ho vista, chiaramente, che siamo alla radio, ma mi è bastato sentire la voce di Martellini per fotografare esattamente non solo quel momento e quella parata, ma anche dove ero, con chi ero, perché insomma quella partita e quel mondiale per quelli della mia generazione, che poi forse anche la tua, è stato proprio l'inizio, no? Una sorta di nascita. Guarda, ero nella sala di casa mia, appena tornato dal mare, ma guarda, io lo chiedo anche agli amici da casa, 800 24 00 24, perché chi ha da una certa età in su quella parata lì è forse, credo, ancor più dell'urlo di Tardelli, una delle immagini forti di quel grande mondiale che vincemmo nell'82, Dino Zoff, che insomma quel pomeriggio lì, mandagli gli auguri. Ma sì, gli ho mandato un messaggio qualche minuto fa e devo dire che insomma Dino Zoff è uno di quegli italiani ai quali vuoi bene a prescindere, perché ha incarnato valori straordinari, valori semplici, valori di una volta, mi verrebbe da dire, se non corressi il rischio di diventare subito passatista. Però insomma è la verità, è quell'Italia lì, è quell'Italia alla quale vogliamo bene, è un senatore a vita di questo paese. Tra l'altro gli fosse andata bene nell'europeo da CT, ce lo ricorderemmo anche per altro. Sì, sì, perché lui è stato un bravo allenatore. È stato un ottimo allenatore. È stato un ottimo allenatore, ha ottenuto risultati importanti. Un allenatore, credo, serenamente si possa dire, più di gestione, secondo me, che di idee rivoluzionarie dal punto di vista calcistico, ma non c'è niente di male. Cioè, un grande gestore di gruppi, con, diciamo, secondo me, un po' ancelottiano come tipo di approccio, no? Un classico allenatore... al quale vuoi bene, la classica persona alla quale vuoi bene, che si fa amare, che conosce benissimo il calcio, che conosce benissimo i meccanismi complessi dello spogliatoio, pensa all'Ester. Sì, sa come si guarda. Tre gol ieri sera come fossero tre coltellate alle spalle, hanno messo la firma. Però ecco, questo, scusa se faccio una piccola digressione, da un lato ci fa arrabbiare ancora di più, indignare ancora di più, dall'altro mi fa anche pensare che poi alla fine la scelta, per quanto dolorosa, per era quanto non elegante, insomma, voglio dire, perché poi noi da qui la giudichiamo ovviamente con gli occhi di quelli che seguono altre squadre, dell'Ester come del Derby County o del Nottingham Forest non ce ne può fregare di meno in assoluto, anche adesso ci stanno magari anche un po' antipatici, però è ovvio che lì comunque alla fine c'era la necessità di salvarsi. Sì, ma cosa fa una società quando è messa a spalle al muro dal proprio spogliatoio? No, guarda, no, dopo infatti... le 14:30, io lo dico già agli amici da casa, ne parleremo con un tecnico di spogliatoi anche in Inghilterra, ne ha visti e ne conosce. A proposito di allenatori, altro tema, carissimo Pier, Stefano Pioli, che ha perso male, oggettivamente male anche per suoi errori, una partita contro una squadra più forte, e improvvisamente è diventato debole e scomodo. Dopo 9 vittorie in 10 partite, oggi, se hai letto i giornali, insomma 2 mesi per tenersi la panchina, l'obbligo della Champions, Conte, Mourinho, Allegri, Simeone, pronti per la successione. I titoli c'erano anche prima, è chiaro che questa partita, che è una partita oggettivamente pesante, perché questo risultato complica clamorosamente i piani dell'Inter, cioè l'Inter ha fatto una corsa in salita incredibile, e Pioli probabilmente col senno di poi poteva essere richiamato prima. Secondo me rimane il fatto che sta facendo un ottimo lavoro e secondo me l'Inter non è a livello della Roma e neanche del Napoli, quindi alla fine non è così scandaloso perdere con la Roma. Però certo, soprattutto se il progetto Inter dovesse essere, come i tifosi sperano, un progetto molto glamour, quindi pieno di soldi, pieno di acquisti, insomma è ovvio che quegli altri nomi lì servono. Io non sono completamente d'accordo con questa cosa. Trovo anche paradossale, Pier, in fondo la classifica si è accorciata, l'Inter resta a 6 punti dal Napoli, come sarebbe rimasta battendo la Roma con il Napoli che vince con l'Atalanta, quindi quella che era la previsione fino a sabato pomeriggio, che intorno all'Inter si consideri chiusa questa stagione. Pur con tutte le valutazioni si comincia a parlare del prossimo allenatore, con tutto quello che poi succede in questi casi. No, ma sicuramente Pioli, ribadisco, sta facendo molto bene e ci sono ancora dei margini, secondo me molto stretti per un posto in Champions, però ci sono ancora dei margini. Che i giornali speculino è normale, cioè non è niente di strano, sarebbe sorprendente se non fosse così. Tanto più che, ripetisco, l'Inter sembra un progetto in rampa di lancio con soldi da spendere, quindi è ovvio che il nome di Conte lo fai, il nome di Simeone lo fai, cioè non c'è niente di personale secondo me nei confronti di Pioli, che sta facendo un ottimo lavoro, però è ovvio che l'asticella è molto alta e quindi ci sono alternative. Tra i nomi c'è anche Allegri, che intanto questa sera si gioca la Coppa Italia con tutti i titolari o quasi, a parte Neto e Asamoah giocano gli 11 che di solito fanno la Champions. Volevo sapere cosa ne pensi di questo paradosso: la Juve, che quasi certamente vincerà il sesto scudetto, gioca la Coppa Italia per vincerla, Sarri oggi fa turnover. Beh, innanzitutto bisogna vedere se andrà così. Le settimane di Juve e Napoli sono completamente diverse. Quindi io credo che Sarri, se farà turnover, lo farà per necessità. Non ha nella testa le parole di De Laurentiis, un po'. Non lo so. Il rischio c'è, che ti restino dentro. Sì, ma secondo me qui è il punto è un altro. Qui il punto è semplicemente il fatto che il Napoli ha in questo momento un calendario assurdo, assurdamente difficile, come quello della Roma, senza alcun dubbio. Mentre la Juve ha in questo momento una situazione nettamente più serena, si è portata avanti col lavoro a Porto, domenica, con tutto il rispetto, l'Udinese, quindi fa 5 giorni e mezzo per andare a giocare una partita non proibitiva. È ovvio che Allegri non può fare questi ragionamenti. Io non penso che Sarri faccia turnover, se farà turnover perché sottovaluta l'importanza della Coppa, che in questo momento secondo me è fondamentale per il Napoli, cioè andare in finale e eliminare la Juve sarebbe un colpo straordinario. Anche perché rischia di essere l'unico trofeo che puoi alzare, diciamo la verità, anche se tutti tifiamo martedì per la grande rimonta col Real. È più importante stasera che sabato per il Napoli, nel senso che sabato è una partita, ovviamente uno scontro diretto, ma non è una partita così decisiva come quella di stasera. Quella che dice De Laurentiis, che puoi perderne 2 o 3, tanto poi recuperi, no? Sì, io non ci credo, secondo me non è vero. Perché non è più lo scudetto. Beh, ma adesso in questo momento, scusate, il Napoli è l'obiettivo del Napoli in questo momento, prima di tutto, è blindare il terzo posto, no? Credo che non ci siano dubbi. Poi, ovviamente, se dovesse vincere l'Olimpico con la Roma, rientrerebbe prepotentemente in corsa per il secondo, che è nettamente meglio che arrivare terzi, non c'è dubbio. Però la partita di stasera, secondo me, è più importante, perché andare a giocare una finale di Coppa Italia... sarebbe forse l'unico trofeo raggiungibile in questa stagione. Pier, abbiamo il traffico, ti saluto. Ciao, e magari sentiamo dopo. Qui c'è un treno che sta partendo. Ciao Pier. I treni partono. Ciao. 800 24 00 24, vi aspetto. Voglio sapere anche dove eravate quando Zoff prese quel pallone lì in Italia-Brasile, oppure 349-238-6666, SMS e WhatsApp. Torniamo subito. Convocati. Tutti convocati. È bastato nominare la parata di Zoff e siete tantissimi, che ci state ricordando dove eravate quel giorno del giugno del 1982. 800 24 00 24. Vi aspetto, poi dopo le 15 apriamo anche i telefoni, cerchiamo di farvi sentire. Tra un istante raccontiamo anche storie di allenatori che vanno e vengono, forse, perché oggi è stata la giornata sui giornali italiani di questo incredibile ballottaggio tra Pioli, Conte, Allegri, magari Simeone, o forse la suggestione Mourinho per l'Inter del futuro. E mi piace anche sapere che cosa ne pensate. Oh, prima però ci prendiamo un paio di minuti, perché da una mezz'oretta a questa parte c'è fibrillazione forte sulle vicende che riguardano il Milan, il closing che è previsto per il 3 marzo, venerdì. Fino a questa mattina sembrava tutto a posto, oggi invece comincia a trapelare qualche voce strana. Allora, noi abbiamo chiamato Marco Bellinazzo. Ciao Marco. Ciao, eccomi, buon pomeriggio. E proviamo a fare un po' il punto a 3 giorni dalla data che dovrebbe segnare la fine dell'era di Silvio Berlusconi. Continuiamo però ad usare il condizionale, eh? Sì, devo dire che mentre per l'ennesima volta, insomma, mentre sembrava tutto fatto, poi nell'imminenza del closing o sedicente tale vengono fuori, insomma, un po' di problemi. Ora, in queste ore si sta discutendo di cosa? Innanzitutto del fatto che, a differenza di quanto emerso finora, non dovrebbe esserci più un consorzio, ma Lee Yong-yong sarebbe l'unico proprietario, l'unico riferimento societario di Sino Europe Sports. E gli altri soggetti, non sappiamo ancora quali, sarebbero come parti diciamo non più societarie, non più quindi azionisti del fondo, ma finanziatori peraltro insufficiente, perché l'altra questione che sta emergendo è appunto una discussione su una possibile rateizzazione del pagamento, cioè Yong-yong sarebbe disponibile a versare, rispetto a quest'ultima rata di 320 milioni, una parte abbondante dei soldi, ma il resto lo pagherebbe più avanti, e si sta discutendo proprio di questo. Chiaramente si tratta di elementi che non ci possono portare a dire che il closing salta, questo assolutamente le parti lo negano e dobbiamo attenerci a questo, ma non è un elemento, come dire, del tutto tranquillizzante, ed è l'ennesimo episodio che mette in discussione tanti aspetti di questa operazione. Di questa vicenda. Quindi, riassumendo, un unico proprietario, nessun consorzio, i nomi che sono stati fatti e che, notizia anche di questa mattina, in parte si sono sfilati dall'idea di essere investitori. Avevamo sentito Warong nei giorni scorsi, la notizia di questa mattina di AG China è invece di China Merchant Bank, che nega di essere investitore in questa operazione. Sarebbero in realtà solo finanziatori dell'unico proprietario, che sta chiedendo però la rateizzazione del pagamento. Esattamente. Questo è lo scenario oggi, ore 14:21. Assolutamente, bene ribadirlo, insomma, poi vediamo con il proseguo delle ore quello che succederà, le notizie che riusciremo ad appurare, cercando anche di distinguere tra tante voci, rumors e indiscrezioni che stanno emergendo intorno a questa. Ma esiste la possibilità che Berlusconi resti dentro? Ah, guarda, è assolutamente escluso da tutti in questo momento, quindi io mi attengo a questo. Dopodiché questa vicenda ci ha insegnato talmente che ci sono talmente tante incognite che insomma io zero virgola qualcosa, come direbbe Galliani, lo lascerei sempre aperto, insomma, come sì, spazio. È sicurissimo al 99,99%. Esatto, come dice Galliani, quindi ci atteniamo alla politica societaria rossonera e quindi rispondiamo così anche noi. Noi siamo fino alle 15:30. Siamo qui fino alle 15:30. Grazie Marco. Grazie a voi. Grazie Marco Bellinazzo, insomma l'avete sentite, notizie fresche proprio dell'ultimo minuto. Parliamo un po' di allenatori. Riccardo Ferri, ciao. Ciao, buon pomeriggio. Ciao Ricky. Buon pomeriggio. Oh, io trovo incredibile quello che sta succedendo intorno a Stefano Pioli, non so come la pensi tu, che è passato in una sera da uomo della provvidenza ad allenatore debole e scomodo. Ma il nostro calcio purtroppo che ti porta in alto in un giorno, il giorno dopo ti butta di nuovo giù, ma io credo che bisogna essere però da parte nostra, da parte di chi giudica il calcio in maniera, diciamo, molto pacata, molto con la conoscenza della causa, quindi da parte nostra ci deve essere una considerazione che indubbiamente il lavoro di Pioli, come il lavoro di Sarri, sono stati dei lavori straordinari. Pioli ha avuto poco tempo a disposizione, non ha avuto neanche il periodo estivo, che è molto importante per gli allenatori per cercare di creare degli equilibri alla squadra, quindi devo dire che da questo punto di vista forse Pioli ha fatto ancora meglio rispetto a Sarri. Ma questi allenatori che ovviamente hanno fatto la hanno fatto un lavoro straordinario, che dall'oggi a domani poi vengono messi messi in discussione. Io la trovo ridicola la cosa, e ripeto, rimango dalla mia opinione che a Pioli addirittura rinnoverei il contratto e cercherei di creare una collaborazione con lui per puntare su di lui per il futuro, perché a mio avviso anche se sembra ineluttabile, grande capacità. Anche se sembra ineluttabile il fascino del grande nome, io faccio l'elenco oggi aprendo i giornali: Conte, Allegri, Simeone, Mourinho. Va bene, allora mettiamoci anche Kevin Costner. Voglio dire, vabbè, ma al di là della battuta, tu sei così, scettico sull'idea che Conte e Allegri possano diventare un domani allenatore dell'Inter? No, io non sono scettico, perché ormai siamo abituati a dei cambiamenti repentini e quindi a delle situazioni impensabili. Però voglio dire, vogliamo riconoscere però il lavoro che è stato fatto, perché altrimenti a questo punto, cioè, buttiamo via tutto in breve tempo, come del resto anche con tanti giovani, no? Tiriamo le conclusioni affrettate e poi ci troviamo che questo giovane non gli abbiamo dato il tempo necessario e poi va magari a fare la fortuna di qualche altra società. Quindi bisogna avere la capacità di valutazione. Poi ripeto, se la società, in questo caso l'Inter o chi per esso, pensa, perché comunque oggi li spende la società, pensa che è meglio cercare di portare a casa un nome altisonante, perché con questo personaggio si possa conquistare tutto quello che non è stato possibile in precedenza, ben venga. Ma io credo che lo stesso Mourinho, se arriva, chiaramente chiederà acquisti importanti, lo stesso Conte chiederà acquisti importanti, e ci si ritrova poi, come è successo anche in passato, che tutti questi acquisti poi non vengono poi valorizzati, perché poi questi allenatori durano 2-3-4 anni e poi vanno da altre parti. Quindi io ripeto, io punterei su quello che attualmente è la realtà, cioè di un allenatore che ha fatto bene, sta facendo bene, ha perso una partita contro la Roma, ma a mio avviso la Roma in questo momento è più forte dell'Inter, quindi non vedo quale sia il problema. Ha una macchina sicuramente più potente, che tiene meglio la strada, che indubbiamente ha la capacità di... No, ma la Roma è più forte, però ciò non toglie che Pioli qualche errore l'ha commesso domenica sera. Ma allora facciamo una considerazione: chi non commette errori? Cioè, chi degli allenatori attualmente, non in Italia, in Europa, ma nel mondo, non commette errori? Ma però sperimentare nella partita più importante della stagione. Allora, Allegri ha messo Sturaro a sinistra e ha vinto la partita. Ma nel caso in cui avesse perso la partita, saremmo qui a parlare di un Allegri fuori da ogni logica, no? Perché non ha fatto giocare Mandzukic l'ha messo dietro Higuain, ha fatto giocare Cuadrado dall'altra parte, non ha fatto giocare Piazza. Quindi, cioè, tutti siamo bravi, poi col senno del poi, no? Io credo che Pioli può aver commesso degli errori, però la cosa importante è che ci dimentichiamo quando lui ha realizzato questa squadra, che non aveva un minimo di identità, non aveva un minimo di equilibrio, non aveva una condizione fisica, c'erano giocatori che addirittura erano già sul mercato perché erano irriconoscibili, e poi tra l'altro non li voleva nessuno. Attualmente ha valorizzato i giocatori che non erano stati valorizzati, ed è in una posizione di classifica che, guardandola 3-4 mesi fa, era impensabile. Quindi voglio dire, allora, cioè, possiamo mettere in discussione chiunque, no? C'è chi dice ha sbagliato un'unica partita, non è quella con la Roma ma è quella con la Lazio di Coppa Italia, Max da Udine. C'è anche chi ci chiede di fare l'elenco delle vittorie. Per carità, ha vinto con le squadre meno forti, ma questo secondo me è un pregio, non un difetto. Poi con quelle più forti, come la Juventus, come il Napoli e come anche la Roma, si può anche perdere. Ma però volevo farti un'ultima considerazione. Ho incrociato prima un interista, non dirò il nome nemmeno sotto tortura. Mi dice: Conte o Allegri, nessuno dei due è meglio arrivare settimi, ma senza Juventini in casa. Questo è un integralista. No, vabbè, ma comunque, cioè, Conte e Allegri sono due allenatori. Io penso sia una stupidata, No, vabbè, ma Conte e Allegri sono sicuramente due allenatori straordinari. Chiaramente io, se dovessi puntare in questo momento, punterei su Conte, perché Allegri non penso che venga all'Inter dopo tutto il percorso che ha fatto la Juventus. Quindi Conte magari... E diciamo che ha avuto il passaggio all'estero che l'ha un po', per gli juventini l'ha un po' decontaminizzato, quindi sì. alla fine questo può essere per i tifosi un qualcosa di diverso. Però al di là di questo, allora, vi ricordate quando Ranieri era citato come un perdente, quando la Juve era criticato come se fosse un incompetente, e poi gli stessi in questi ultimi giorni, ma in questo ultimo periodo, e soprattutto dopo la vittoria nel campionato inglese, l'hanno osannato. Io ho guardato gli articoli e ho letto le firme, erano le stesse firme che lo giudicavano come un incompetente. Riccardo, l'ha detto anche Ancelotti, celebrando le sue 1000 panchine, ha detto: io sono rinato la notte della finale di Manchester, prima ero un perdente, dopo sono diventato uno dei migliori tecnici del mondo. Ma così va il mondo, eh. Grazie, esatto, Riccardo. Esatto. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie a Riccardo Ferri. C'è chi mi scrive se l'Inter ha avuto più danni con la Juve o con la Roma. Più danni arbitrali, immagino. Io credo che abbia perso due partite che ha perso sul campo. C'è qualche episodio. La prima l'ha giocata molto bene e la seconda molto male. 800-24-0024, Luigi da Fermo. Luigi. Pronto? Eccoci. Allora, ricordiamo Italia-Brasile, quell'incredibile partita. Dopo che venivamo da un girone proprio penoso, perché avevamo fatto pena, non si pensava mai che potessimo battere Argentina e Brasile in un girone a tre incredibile, perché quei girone a tre adesso fortunatamente non ci sono più, perché la terza partita alla fine diventava anche un influente a seconda dei risultati precedenti. Straordinario. Con quella parata lì di Zoff che abbiamo ricordato prima. La formazione di quella squadra fu incredibile, in pochi giorni passarono da tutti quanti, erano sui giornali diventati tutti dei brocchi, improvvisamente. Sì. A proposito dei giudizi sugli allenatori, a partire da Berzot, che poi cambiano in un attimo, stanno arrivando tantissimi di messaggi di persone che ricordano dove erano quel giorno e in quel momento, il momento in cui Zoff, che oggi compie 75 anni, inchiodò sulla linea di porta il colpo di testa di Leandro. E ancora oggi vengono i brividi. 800-24-0024, c'è la borsa. Dopo però torniamo con un grande ospite per parlare di panchine e soprattutto di panchine inglesi, per parlare anche di Antonio Conte. Parliamo anche della Fiorentina con Paolo Sosa, che resta ma che i tifosi vorrebbero il più possibile lontano da Firenze. Voglio sapere anche cosa ne pensate. Borsa. Tutti convocati. Hai tra i 18 e i 35 anni? Raccontaci la tua Europa e viaggia fino a Strasburgo. Con Radio 24 e l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano puoi aggiudicarti un viaggio studio all'Europarlamento. Dal 4 marzo al 13 maggio ascolta giovani talenti e scopri la parola chiave settimanale con cui partecipare. Inviaci il tuo racconto sull'Europa che hai vissuto o che vivrai per studio, stage o lavoro. I migliori partiranno per Strasburgo. Sono Sergio Nava, vi aspetto ogni sabato alle 13.30 con Giovani Talenti. Tutte le info su radio24.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Tutti convocati. Parole da Leicester, dove ieri sera Leicester deranierizzato è risorto 3-1 contro il Liverpool. I tifosi, l'avete sentito, cantavano tutti per Claudio Ranieri. Io l'ho detto prima con Pierluigi Pardo, tre gol che valgono come tre coltellate nella schiena. Saluto Francesco Guidolin, ciao mister. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Abbiamo avuto la conferma che il destino degli allenatori è appeso allo spogliatoio, sempre comunque. Ma guarda, io non so cosa dire, ho visto la partita anch'io e ho visto anche la partita precedente del Leicester, e in effetti si è visto qualcosa di diverso. Ieri hanno giocato come hanno giocato l'anno scorso, tutto il campionato scorso, con Claudio, con quella fantastica cavalcata che li ha portati a vincere la Premier League, il campionato più importante del mondo. Io non so cosa sia successo, bisogna essere dentro per capire le dinamiche all'interno dello spogliatoio. Sicuramente è il luogo più importante del mondo calcistico, è lo spogliatoio, è il luogo dove si fanno le fortune e dove si fanno anche le sfortune. E io non so oltre che solidarizzare con Claudio, perché mi dispiace tanto per lui, perché immagino che stia passando dei giorni non facili dopo essere stato un re in quella città e per quella squadra, però tutto quello che ha fatto è il suo trono, non glielo toglie nessuno, la sua vittoria in questo bellissimo e difficilissimo campionato non gliela può togliere nessuno, quindi credo che questa sia la consolazione più grande, questo ricordo un po' alla volta. A te è mai capitato la cosa bella? È mai capitato di essere mandato via e poi dopo tre giorni magicamente la squadra correva, giocava, vinceva, segnava? Guarda, io ho avuto il mio primo esonero, cioè primo, per me è anche l'unico, ma comunque a parte quello di quest'anno. Quando ho cominciato la mia prima esperienza in Serie A, io dopo tre mesi sono venuto via dall'Atalanta, cioè mi hanno mandato via dall'Atalanta. Però quell'Atalanta è retrocessa, non è che cambiando me le cose si sono cambiate molto. Oh, è caduta lei, Francesco Guidolin, che proviamo immediatamente a ripristinare. Allora, Mauro da Milano, Mauro. Ciao a tutti, complimenti. Ciao. Per la trasmissione. Vai. Mauro Nerazzurro. Sì, Conte o Allegri? Nessuno dei due. Nessuno, no, dei due. Io la trovo provinciale come posizione. Tengo Pioli. Sì. Pioli. Ah, nessuno dei due perché tieni Pioli, non perché sì, hanno il DNA bianco-nero. No. Tengo Pioli. Io sto con il mio stopper, Riccardo Ferri. Dico il mio stopper per lo scudetto del Trapattoni. Come ricordiamo la parata di Zoff? Come sì, se fosse in questo istante. Ero all'oratorio, 17 anni. E ho i brividi ancora adesso a rivedere Dino che si rialza e con un braccio che grida no. Sì, perché i brasiliani poi facevano cacciara, chiedevano come se la palla avesse superato quella linea bianca, invece no. Tra l'altro colpo di testa di Oscar, sono stato corretto da parecchi ascoltatori e non di Leandro, colpo di testa di Oscar e parata di Zoff. Abbiamo recuperato Francesco Guidolin, Zoff, che oggi compie 75 anni. Eravamo rimasti all'Atalanta che sì, poi sì, non si salvò. Dicendo, sì, stavo dicendo che appunto ho avuto quell'esonero, la mia prima esperienza in Serie A. Voglio dire, le cose non eravamo partiti benissimo, poi andavano male. Dopo tre mesi mi hanno lasciato a casa, ma quell'Atalanta è retrocessa, perché credo è una cosa molto brutta per un allenatore vedere che le cose cambiano in positivo, vai via te, e o per merito della squadra che si rianima o perché un altro fa meglio di te, e questo non è bello. Da un punto di vista della professione, però a me quindi questo non è successo, però è successo pochi mesi fa di essere stato esonerato, e sicuramente non è una bella cosa per un allenatore, ma sono cose che capitano nel nostro mondo, e questo è un esempio eclatante, quello di Claudio. Io ribadisco, è impensabile una squadra che nel 2017 aveva fatto un punto in sei partite e non aveva mai segnato, che fa la prestazione che ha fatto ieri sera al Leicester contro il Liverpool, poi uscendo anche dal caso di Claudio Ranieri del Leicester, resta sempre aperto il dibattito su come si debba comportare una società, perché poi messa a spalle al muro probabilmente la scelta dell'esonero diventa inevitabile. Ripeto, bisogna per poter giudicare, bisogna, o per poter dire, bisogna essere dentro, bisogna essere protagonisti di una particolare vicenda, quindi qualsiasi parola sarebbe fuori luogo, insomma, perché bisogna capire le dinamiche. Lo spogliatoio, ti ripeto, è il luogo dove si fanno le fortune e le sfortune di una squadra. Che effetto ti fa mister Zamparini che chiude? L'ha detto ieri, comunicato, dimissioni, sì, ha venduto a un fondo anglo-americano, anche se resterà da consulente. Sì, avevo già sentito qualcosa, non sapevo appunto di questo fondo, non sapevo i particolari, ma io di Maurizio Zamparini ho un ricordo piacevole, perché come sempre succede fortunatamente nella vita, quando passa un po' di tempo, e così sarà anche per Claudio, restano a galla le cose belle, i ricordi belli, e io a Palermo di cose belle ne ho vissute tante, perché in tre anni abbiamo vinto insieme con Zamparini, abbiamo vinto un campionato di Serie B, siamo arrivati sesti al primo anno e quindi indirettamente in Coppa UEFA al primo anno di Serie A dopo 32 anni, e nell'ultima mia annata, nella penultima, siamo arrivati quinti, lottando in tutti e due i casi per una posizione in Champions League. Cioè, in pratica, quello che sta facendo più o meno l'Atalanta adesso col Palermo è stato fatto due volte nell'era di Zamparini con me allenatore. In quel periodo Zamparini aveva grandi possibilità, e io ricordo ho un ricordo piacevole di lui, perché sicuramente è un presidente non facile, che non ha gustato le cose belle che la sua squadra ha fatto, perché c'era sempre qualcosa che non andava. Però ho un ricordo positivo, perché un uomo che ti diceva le cose guardandoti in faccia, un uomo leale, un uomo generoso, nel senso non tanto che pagava bene i suoi dipendenti, ma perché se io gli chiedevo, e quando gli ho chiesto dei giocatori importanti, lui li ha presi, perché aveva i mezzi economici e si fidava di lui. Aveva anche intuizioni. Sicuramente cioè, sì. Zamparini è più del presidente che ha mandato via 36 allenatori mandati, richiamati, insomma tutto quello poi che è l'aneddotica su Zamparini, questo sì, va detto. Sicuramente sì, almeno nel periodo in cui l'ho conosciuto io e nel periodo in cui ho lavorato insieme a lui, sicuramente un presidente che avrebbe dovuto soltanto avere la precauzione di non parlare dopo la partita con i giornalisti, cosa che non gli è mai riuscita, perché dal martedì in poi, quando aveva metabolizzato magari la sconfitta, sconfitta che per fortuna nel mio periodo non era così frequente, perché se quando è frequente la sconfitta Zamparini ti manda a casa. E per stare tanto tempo con Zamparini bisogna che perdi ogni tanto, non sovente. Ma se avesse avuto la capacità di magari tenere a freno il suo carattere in certi momenti, quando inevitabilmente per una squadra come il Palermo le cose magari non vanno tanto bene, sicuramente sarebbe stato un perfetto presidente. Però siccome la perfezione non esiste, io di lui mi tengo volentieri le cose belle che ho conosciuto. Credo se le debbano tenere anche i palermitani, al di là di come esatto. È finita, ma questo è un discorso che va allargato anche ai milanisti, che vivono ore e minuti frenetici. Anzi, dopo il traffico vi diamo ulteriori aggiornamenti sulla vicenda del closing. Io intanto ringrazio Francesco Guidolin, grazie Francesco. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie presto. Francesco Guidolin, sì, perché ci sono altri aggiornamenti. A proposito del closing, traffico, c'è Alberto dalla provincia di Varese, da cui ripartiamo insieme gli aggiornamenti sul closing subito dopo il traffico. Tutti convocati. Faircam Air & Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta. Tutti convocati. Allora, ci sono Alberto dalla provincia di Varese e Alessandro da Milano. Però vi devo gli aggiornamenti sul closing e continueremo poi a aggiornare fino alle 15.30. Perché sono minuti davvero frenetici, lo ha detto in anteprima il nostro Marco Bellinazzo, lo abbiamo sentito prima, dunque Yongon Lee, unico proprietario e non più un'accordata, un consorzio, come volete definire, Sino Europe Sports, gli altri soggetti di cui sono stati fatti i nomi, ma alcuni si sono sfilati anche questa mattina, notizia di AG China a proposito di China Merchant Bank, soltanto finanziatori e non più investitori, ma soprattutto il fatto che sarebbe in discussione una possibile rateizzazione del pagamento dei 320 milioni che mancano per Fininvest, evidentemente perché non c'è tutta la liquidità immediata. L'altra notizia, proprio di pochi istanti fa, è che salta ufficialmente l'assemblea del 1 marzo e dunque rimane convocata per seconda convocazione il 3 marzo 2017, ore 9.30, presso Casa Milan, per tutto quello che sarà l'aggiornamento a quel punto della situazione, closing o non closing. Sky Sport pochi minuti fa ha detto che lo scenario più probabile è quello di una nuova proroga chiesta dai cinesi, su cui Berlusconi e Fininvest stanno riflettendo, ma che potrebbe essere concessa. Questi gli aggiornamenti del closing, ore 14.47. Alberto dalla provincia di Varese. Alberto. Sì, saluti. Eccoci. Saluti a tutti. Io volevo raccontare due aneddoti che mi sono capitati in occasione di quella parata memorabile del nostro Zoff, che vorrei augurare altri 65 anni. Io mi trovavo in Inghilterra, precisamente a Cambridge, per motivi di studio, e dopo quell'evento ci fu una grande festa, fui arrestato per disturbo della quiete pubblica poi la signora che mi ospitava gentilmente come studente a quei tempi mi preparò un menù all'italiana. Sopra c'era una bella pizza, peccato che sotto c'erano degli spaghetti. Gli inglesi non mangiano benissimo, No, ma anche non hanno digerito benissimo la nostra avanzata verso la vincita del mondiale. Gli inglesi con il mondiale hanno un rapporto un po' complicato, insomma. Però è un bel ricordo, Alberto, dai, essere arrestati per quella parata lì di Dino Zoff. meravigliosa. Alessandro da Milano, Alessandro. Sì, salve, buongiorno, chiamo da Milano. Ecco. Volevo parlare dell'Ester. Sì. Niente, ieri io ho visto la partita come tanti spettatori e niente, la squadra è, praticamente si è trasformata. Io ricordo di aver visto le altre partite a dicembre, a gennaio, una penosissima contro il Boro e l'altra contro il West Bromwich Albion, che, dove Drinkwater addirittura ha fatto un assist quasi al centrocampista avversario. C'è un'involuzione in quei mesi e ieri, così per incanto, la squadra si è visto proprio con un altro piglio. Il sospetto è forte. Nel 2017 non aveva fatto un gol in 6 partite. Difficile pensarlo, un gol in 9 ore non aveva fatto, ieri sera ne ha fatti 3, Vardy ne aveva fatto credo 1 in tutto il campionato, ieri ne ha fatti 2, di che stiamo a parlare? Carlo Pallavicino, ciao, buon pomeriggio. Ciao, buongiorno. Parliamo un po' di Fiorentina. Io dormo sereno perché cerco di fare il mio lavoro con molta onestità, e è quello che mi porta avanti a... Da quando ho cominciato a stare nel calcio. Noi dentro lo scudetto abbiamo parlato, abbiamo rinnovato col mister la fiducia, l'unità di intenti, poi non sappiamo che cosa deciderà la società. Noi comunque fino all'ultimo momento saremo col mister perché siamo tutti sulla stessa barca. Questi Paolo Sosa e Saponara ieri, dopo l'ennesima beffa di rimonta per la Fiorentina. Carlo Pallavicino, procuratore, editore di calciomercato.com, profondo conoscitore delle cose di Firenze, ha senso proseguire con Paolo Sosa oppure hanno ragione i tifosi a chiederne la testa subito? Ma ormai ha poco senso qualunque cosa, perché la stagione è, direi, andata e quindi non ci sono più obiettivi reali. Dunque un traghettatore in questo momento servirebbe a ben poco. Credo che anche scaricare le responsabilità complete su Paolo Sosa non sia la soluzione di un problema che viene da molto lontano, perché se andiamo a guardare le campagne acquisti e cessioni che ci sono state alla Fiorentina proprio da quando è arrivato Paolo Sosa, se si eccetto all'acquisto di Kalinic e tutto il resto, è stato veramente solamente un vendere, anzi diciamo vendere molto bene, ma vendere senza rinforzare in alcun modo questa squadra. Ora speriamo che l'arrivo di Saponara, se non altro, possa portare un po' più di qualità e di possibilità sul fronte offensivo, però la realtà in questo momento è che la Fiorentina è troppo tempo che non sta più programmando, immaginandosi come una squadra con un futuro, con delle prospettive, ma solamente con una squadra che vive, che vivacchia. Ma è immaginabile che sia in vendita la Fiorentina? O che Della Valle considerino chiusa l'esperienza? Te la faccio questa domanda perché è una voce che gira, è inutile che ce lo nascondiamo. Ma io credo che a tutt'oggi loro non abbiano mai seriamente pensato di venderla, anche se ha detto che probabilmente hanno avuto dei contatti in questi ultimi anni con qualche mediatore, con qualche persona che ha portato al tavolo delle persone che potevano avere degli interessi, ma delle vere e proprie trattative non risultano. E comunque io penso che fino a che non ci sarà un progetto sul tavolo importante anche per il discorso dello stadio, la Fiorentina rischi di essere meno appetibile di quanto pensano i Della Valle nel momento in cui andassero a venderla. Sì, è difficile trovare qualcuno che ci metta dei soldi. Poi trovo provinciale il fatto che a Paolo Sosa venga rinfacciato questo presunto, quanto mai presunto in questo momento, futuro alla Juventus. Non so nemmeno se dopo una stagione così Paolo Sosa continui ad avere il profilo giusto per la Juve. Sì, fra parentesi, poi devo dire, insomma, i miei concittadini sono sempre molto originali, ma quello di dargli di gobbo, di puntini puntini a Paolo Sosa mi sembra una delle accuse più originali che ho mai sentito in vita mia, perché se c'è un giocatore che ha avuto un comportamento in vita sua, anche quando giocava alla Juventus, estremamente direi corretto e voglio dire professionale, al punto di poi dover anche lasciare la Juventus per dei motivi legati a dei rapporti non proprio idilliaci con Moggi allora, ecco, mi pare che proprio questo sia proprio così un po' campato per aria, questa accusa che a Firenze sappiamo essere sempre un'accusa particolarmente sulla bocca di tutti. Cioè, rischia di essere la tomba di un rapporto, ma del resto il rapporto tra Paolo Sosa e la società si è guastato l'anno scorso a gennaio, è durato di fatto i primi 4 mesi, 5 mesi, poi è calato il grande gelo. Chiedo ancora un minuto di pazienza a Carlo Pallavicino per capire invece che cosa farà Bernardeschi, che credo sia la vicenda su cui si misurerà poi davvero cosa sarà la Fiorentina in futuro. Oggi leggevo da qualche parte l'idea di una Fiorentina italiana giovane su cui investire, che può essere bellissimo come progetto, non so quanto possa interessare a un giocatore come Bernardeschi, parallelo sempre anche con Donnarumma e il Milan, per intenderci. Sì, infatti mi stava venendo in mente proprio Donnarumma e devo dire che se oggi come oggi il futuro di Donnarumma in un club comunque di blasone come il Milan è incerto, figuriamoci quello di Bernardeschi in un club nel quale non pare essere possibile creare un progetto a lungo termine. I progetti vengono praticamente accantonati non appena danno una percezione di poter essere quelli giusti. Lo abbiamo visto con Prandelli, lo abbiamo visto con Montero, lo abbiamo visto adesso con Paolo Sosa, e onestamente è chiaro che Bernardeschi sarà molto, sempre molto devoto e grato alla società viola di averlo cresciuto e lanciato, ma è ovvio anche che un giocatore come lui, così come qualunque giovane di qualità, abbia bisogno di vedere davanti a sé una qualche prospettiva che poi possa anche legarlo per un periodo di tempo anche ristretto, ma comunque per un periodo di tempo. In questo momento farei fatica a pensare a due strade che si dividono, non è così inimmaginabile, no Carlo? Anche se dispiace per i tifosi della Fiorentina, però insomma il calcio oggi è questo. Grazie a Carlo Pallavicino. A voi, ciao ciao. Grazie a Carlo Pallavicino, noi ci fermiamo perché c'è il GR, ma torniamo tra pochissimo e vi diamo altri aggiornamenti sulla vicenda del closing del Milan, problemi economici, rateizzazione, saltata ufficialmente l'assemblea del 1 marzo, resta in piedi quella del 3, poi parliamo anche di Juve-Napoli, questa situazione incredibile di Sarri che in 8 giorni si gioca la panchina del Napoli del futuro. Torniamo subito. Convocati. Sono Giorgio Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Giorgio Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Ricominciamo tutti ai vostri posti! Convocati. Abbiamo ancora mezz'ora insieme, eh? 800 24 00 24, mezz'ora che vivremo intensamente fino alla fine. Adesso tra qualche minuto parliamo di questo Juventus-Napoli, questa sera ore 20:45, Juventus-Napoli pieno di paradossi. Allegri che è quasi sicuro di vincere il 6° scudetto consecutivo se la gioca con quasi tutti i titolari. Sarri, che forse ha nella Coppa Italia l'unica possibilità di alzare un trofeo, fa turnover. Sarri che oggi scrive la Gazzetta dello Sport, in 8 giorni si gioca il futuro a Napoli. E poi fino all'ultimo vediamo gli aggiornamenti invece sul closing del Milan. Abbiamo sentito prima Marco Bellinazzo, Sole 24 Ore, stanno cambiando le cose, c'è qualche difficoltà. C'è intanto l'assemblea del 1 marzo cancellata ufficialmente, rimane convocata quella del 3 marzo. C'è Yongon Lee, unico proprietario nell'ultimo scenario, con tutti gli altri soggetti di cui si è fatto il nome anche in queste ore, che sarebbero soltanto finanziatori, non investitori. C'è da registrare anche che China Merchant Bank, Adagi China, ha detto di non essere in nessun modo coinvolta nell'operazione. C'è soprattutto, notizia riportata dal nostro Marco Bellinazzo, una trattativa per una rateizzazione dei 320 milioni che entro il 3 marzo SES deve pagare a Fininvest per prendersi il Milan. Sky dice l'opzione più concreta è quella di un'ulteriore proroga che sarebbe chiesta in queste ore a Fininvest. Staremo a vedere. Restate qui perché prima delle 15:30 vediamo un ulteriore aggiornamento. Domenico da Genova. Domenico. Buongiorno a tutti, buongiorno, eccoci. Grazie. Dunque, no, io ero un po' fuori tema perché ho capito un po' male, però non essendo un grande amante dello sport, comunque seguo sempre le 24, mi è venuto in mente che nell'82 sì, ero a Mosca, la famosa parata di Zoff, sì, a Mosca. Sì. A Mosca, e mi sono capitato molto a Siberia, a Mosca, a Russia, e pensavo di essere solo perché ero a 100 metri dalla Piazza Rossa. Sono uscito, ho visto una montagna, non è la parola forse sbagliata, di gente urlare a favore dell'Italia. Allora mi sono detto, ma come mai io, italiano, non esulto perché non sono appassionato di sport e questi russi, forse poi ho pensato l'abbinamento con i tedeschi, comunque... Ecco, solo questa è la mia testimonianza, volevo darvi. O forse erano tutti italiani nascosti, eh? Grazie Domenico. Vi faccio sentire Allegri. Oggi c'è Juventus-Napoli. Ora però domani abbiamo la Coppa Italia. Dobbiamo creare i presupposti per cercare di arrivare in finale. Sarebbe la terza finale di seguito e poi magari cercare di vincere. Affronteremo un Napoli che sarà molto... rabbioso per la sconfitta di sabato contro l'Atalanta. Non è che in tre giorni abbiano perso tutto quello che hanno fatto di buono in questi due anni, quindi sarà una partita complicata e soprattutto è una semifinale di Coppa Italia dove la cosa più importante, visto che giochiamo la prima in casa, è non prendere gol. E intanto questa sera lui se la gioca praticamente con tutti i titolari, a parte Neto in porta e Asamoah a sinistra. Valerio da Vicenza, Valerio. Buongiorno, grazie. Eccoci. Adesso vi sento bene, mi sono solo spostato dalla casa. Vai. Allora, nell'82 o volete sapere del Milan? Quello che vuoi, io nell'82 avevo previsto il risultato, uscendo dalla fabbrica tutti mi chiedevano, e io dicevo vinciamo noi 2-1 o 3-2, e tutti i gol li fa Rossi, e è andata così. Allora ci dici come va a finire il closing, visto che Il closing per me è una bufala. Berlusconi sta facendo rientrare capitali all'estero. Valerio, se dovete dire questa cosa, andate alla Guardia di Finanza e denunciate tutto, per carità. Non è la radio il posto giusto per dirlo. Grazie comunque. Me la rimettete la musichetta? Abbiamo Dino Zoff. Dino, buon pomeriggio. Grazie. Auguri intanto. Grazie. Su chi era quella parata lì? Quella sulla linea Italia-Brasile, ultimo minuto, perché i nostri su amici Oscar, da casa... Oscar. Siamo tutti tratti in inganno dalla telecronaca di Martellini, che all'inizio l'ha data Leandro il colpo di testa. No, era Oscar. Ma sei d'accordo che è un po' davvero l'immagine simbolo di quel 1982? Poi a tutti resterà l'urlo di Tardelli, le mani di Zoff che alzano la coppa. No, beh, tutto, ma guarda che quei mondiali lì saranno quasi irripetibili, perché trovare un mondiale con tanti gol così, tutti su azione, e dopo il primo turno, non è semplice, quindi gol spettacolari in azione. Credo che possa rimanere a lungo. Tu quante ne hai fatte di parate in carriera? Migliaia? No, ho preso anche tanti gol. Ma qual è quella che ti rimane di più? Beh, quella certo, quella col Brasile lì, senza dubbio, perché me la ricordano tutti, capito? Perché poi c'è questa cosa qui che i brasiliani veramente erano convinti di aver segnato, no? O ci provavano un po'? Sì. Vabbè, senti, ti auguri, ringrazio. Ciao. Grandissimo Dino Zoff, c'era la moglie sotto. Max Nerozzi, ciao. Ciao, buon pomeriggio. C'era la moglie sotto che... Diciamo la verità, gli abbiamo rubato due minuti, ma lo stanno chiamando in 10.000 Dino Zoff, che oggi compie 75 anni. Tu ti ricordi dove eri il giorno in cui parò sul colpo di testa di Oscar? Stavo guardando una partita in campeggio. In campeggio. Sì. C'è chi ci ha chiamato che era a Mosca, chi a Cambridge si fece arrestare per quella vittoria. Sì, ho sentito. Sul Brasile. Cosa mi dici del paradosso di questa sera? Cioè di Allegri che vincerà quasi certamente il sesto scudetto consecutivo e che prende la Coppa Italia come se fosse la Champions. Tra l'altro ieri l'avete sentito, gli è anche scappato. Questa è una semifinale di Champions. No, ma guarda, lui a Coppa Italia ci tira da tempo, perché l'aveva già detto a mesi fa. cerca un altro record perché nessuno ne aveva vinte tre dietro fila e sarebbe il secondo anno di biplete per adesso, e quindi lui ci tiene molto, insomma. E poi sarebbe colpito affondato con Napoli, onestamente, perché a meno 12 dallo scudetto, semifinale, scusami, ritorno con Real Madrid, fuori dalla capitale per mano della Juve, insomma, la stagione potrebbe precipitare. Sì, io trovo incredibile quello che scrive qualcuno, oggi lo scrive la Gazzetta dello Sport, ma si respira, cioè di Sarri che si giocherebbe in due settimane anche un po' tutto il bilancio della sua avventura a Napoli, partendo dalle critiche di De Laurentiis. È vero che chi pratica il calcio sa che va così, però... Sai perché, Giovanni? Perché stasera è un po' estetica contro pratica. Se ci pensi, a Sarri è sempre stato rifacciato da De Laurentiis quando andava male, di giocare benissimo ma perdere le partite che contavano. Ad Allegri è stato rinfacciato, se così possiamo dire, che è già assurdo, il fatto di vincere quasi tutto ma giocando male, giocando malino. Stasera si gioca il suo movimento 5 stelle e battuto il Milan, battuta la Lazio, battuto il Porto, però ovviamente si dice, sai, però in 10 contro 11 stasera contro un Napoli, una squadra che gioca meglio in Italia, vediamo cosa combina la Juve, perché questa è la domanda. Magari contro uno che su quella panchina potrebbe, perché abbiamo parlato prima del ballottaggio. Non ci credo. Piole, Conti e Allegri, no, Allegri no, all'Inter, ci credi? Ma può essere, mi sembra difficile che lui, se lascia la Juve, lo farebbe soprattutto per Nesso. Su Sarri non è in dibattito la sua capacità tecnica, ma uno, la Juve non l'ha mai cercato, e due, diciamo un po' quel che pensano in molti, ma che è vero, che l'abito non fa il monaco ma aiuta l'allenatore, e questo, ti dirò, vale anche per Spalletti. Cioè, ci vuole anche il modo di presentarsi per sedersi su quella panchina, ma il modo che ha Paolo Sosa. Poi io da giorni dico, poi vediamo se un allenatore può sopravvivere a una stagione così ed essere ancora buono per la Juve. No, non penso. No, Paolo Sosa no, e ti dico, Spalletti è il favorito numero uno sulla carta se Allegri andasse via, perché c'è un vecchio legame con Beppe Marotta. Spalletti è bravissimo, stimatissimo, poteva già arrivare alla Juve ai tempi di Del Neri e anche di Conte, tra l'altro, ma aveva, ti ricorderai, il contrattone con Zenit all'epoca, prendeva troppi soldi, e se va benissimo dal punto di vista tecnico, però insomma tu ricordi l'ultimo suo anno romano, cioè a Cagliari che si butta sul prato o sbatte il capoccione sulla tavola della conferenza stampa, alla Juve non lo puoi fare. Ricordi cos'è? Anche se Allegri a Reggio Emilia con il Carpa, infatti la società non è stata contenta. Ha lanciato il cappottone, sì. Allegri, che ti dico la verità, mi ricorda l'ultimo Conte, quello dei 102 punti, ma anche per la ferocia con cui insegue la Coppa Italia. Però fanno le cose migliori gli allenatori, è un po' come il secondo mandato del presidente americano, eh? Non devi dar conto a nessuno, e quindi specie fai le cose più apprezzabili. Chiede un amico se Sarri perde la panchina se dovesse perdere con Juve, Roma e Real in una settimana. Io non credo si discuta di questo. Surreale, però è vero che sul futuro è difficile poi dare certezze. Se hai un presidente come De Laurentiis che evidentemente è scontento di molto. Beh, è che è stato il primo però a dare la tsunami con le dichiarazioni dopo Real Madrid, se ci pensi. Sai, insomma, oggi celebriamo anche Zamparini che lascia il Palermo. Ha ricordato prima Guidolin, giustamente, Zamparini non è solo quello degli esoneri, però no, è anche uno dei pochi presidenti capaci di destabilizzare la propria squadra semplicemente aprendo la bocca. È vero, però ha preso anche fior di giocatori. Merita di essere ricordato non solo come quello degli esoneri. Grazie Max. A voi, ciao, buon pomeriggio. Grazie Max Nerozzi. Allora, Luca, Luigi e Mauro, partiamo con Luca da Roma. Buongiorno, allora io ho un ricordo indelebile dei mondiali dell'82, perché è l'anno della mia maturità, e ricordo perfettamente che quando furono estratte le lettere per vedere l'ordine della maturità, io che ho la B fui fortunatissimo, perché fu estratta la C, e quindi il mio esame finale fu il 28 luglio e la finale di calcio fu l'11 luglio, per cui vidi i mondiali tranquillamente, perfettamente. Ed è anche l'unica volta in cui mi sono buttato in una fontana a Piazza dei Ferrari a Genova, cosa che non ho mai più fatto, neanche quando ha vinto la Sampdoria lo scudetto, per dirle. Quindi per la nazionale, ma insomma, quella fu un mese particolare, lo ricordava prima anche Dino Zoff, qualcosa forse di irripetibile, senza togliere nulla anche al mondiale del 2006. A proposito di Sampdoria, notizia degli ultimi minuti: non concessa a Cassano la possibilità di allenarsi a Bogliasco. e quindi insomma finisce definitivamente il rapporto tra Antonio Cassano e la Sampdoria. Luigi da Milano, Luigi. Sì, buongiorno. Eccoci. Cortesemente, a proposito della Fiorentina, visto che non ne parlate mai, nessuno, perché ne abbiamo parlato società. Prima, sì, Luigi. Certo, ne approfitto per questo. Io sono un vecchio tifoso della Fiorentina, ma vorrei dare le dimissioni come tifoso, perché veramente la società è scandalosa. L'ultima presidenza che c'è, da 15 anni che ci sono i Della Valle, non ho mai visto una direzione deficitaria, nel senso che mancanza di programmazione, di un piccolo obiettivo, non hanno vinto neanche capace di vincere una Coppa Italia, almeno quella. Beh, però per alcuni anni la Fiorentina è stata la quarta forza senza forse averne la possibilità. Poteva avere la possibilità, proprio per quello doveva essere un incentivo a fare qualche passettino in più. Allora, questa è la prima colpa della società. È chiaro che poi, parlando dell'ultimo discorso, Sosa ha dimostrato di essere incapace a capire che doveva andare controcorrente, non può fare un tipo di gioco con degli giocatori che la società li mette a disposizione scarsi. Parliamoci chiaro, sono scarsi, ahimè, io come tifoso, ma non posso difenderli, perché fare una sagra degli errori, neanche una squadra, è più dignitoso un Crotone che gioca con gli attributi che questi qui che si sbracano. Io credo, Luigi, che in questa cosa poi Paolo Sosa c'entri, ma non sia l'unico colpevole, e penso che la vicenda e la parabola della Fiorentina in questa parte della presidenza dei Della Valle, prima di tutto parta proprio dalle scelte strategiche di chi la Fiorentina ha. Però è difficile in Italia fare calcio, pensare di vincere partendo dalla provincia, anche una grande provincia e ricca di storia come quella della Fiorentina. È difficile, è difficilissimo, è difficile anche per chi sta in città, basti pensare agli ultimi 5 anni di Inter e Milan. Parliamo di rugby. Marco Bortolami, ciao. Buonasera. Marco Bortolami, convocato per spiegare in maniera comprensibile al pubblico magari non appassionatissimo di rugby perché da 3 giorni l'Italia è sulle prime pagine inglesi e perché li abbiamo fregati domenica a Twickenham. Sì, diciamo che a Twickenham è stata adottata una strategia che è nel regolamento, che tutte le squadre possono adottare, ma che fino adesso non era mai stata esplorata come ha fatto l'Italia. In pratica nel rugby avviene solitamente un placcaggio tra il giocatore che porta la palla e il difensore, questi due giocatori vanno a terra. Questo si chiama placcaggio, che non determina assolutamente una linea del fuorigioco lungo il campo, ma solo due gate di entrata in quella zona lì di placcaggio per gli attaccanti e i difensori, per cui gli attaccanti devono entrare dal proprio lato e i difensori devono fare lo stesso. Quando un attaccante e un difensore entrano in questa zona di placcaggio per andarsi a contendere il pallone, si crea una rack e a quel punto allora si crea la linea del fuorigioco dove tutti i giocatori devono attenersi. Che è quella mischia, la rack, lo diciamo. Esatto, che magari, sì, mischia aperta, anche dentro mischia aperta, esattamente. A quel punto o stai da una parte o stai dall'altra, o difendi o dall'altra, altrimenti sei fuori gioco. Esattamente. E invece che cosa ha fatto l'Italia? L'Italia semplicemente ha placcato gli avversari, ma non ha mandato nessun giocatore a contendere il pallone a terra, per cui il placcaggio rimaneva placcaggio e non diventava una rack. Facendo questo non si veniva mai a formare la linea di fuorigioco e i giocatori italiani potevano stare da entrambi i lati. Questo ovviamente era già stato usato da alcune squadre, ma mai in maniera così estesa e continuativa durante una partita. Ha gettato così lo scompiglio non solo tra i giocatori inglesi, ma anche tra gli spettatori e chi stava guardando l'incontro. Ma come possiamo definirla? Cioè, è una furbata? È una tattica? Oggi c'è chi fa il parallelo con quando i belgi cominciarono a portare fuori dal Belgio la tattica del fuorigioco. Sì, è assolutamente una tattica, per come stanno le regole da oggi, legittima. Ovviamente questo crea un impasse, diciamo, tra attacco e difesa, perché è molto difficile riuscire a giocare la palla negli spazi e l'unica soluzione che l'attacco ha è continuare ad attaccare nell'asse del raggruppamento, per cui raccogliere la palla e in maniera molto diretta correre attraverso i difensori. È sicuramente poco spettacolare e così può essere molto monotono. È chiaro che a questo punto credo si arriverà ad un adattamento regolamentare di questa cosa qui. Già cambieranno la regola. Sì, credo già World Rugby stanno considerando di adattare questa regola qui in modo tale che al placcaggio si creasse la linea del fuorigioco, perché, ripeto, in passato altre squadre l'avevano utilizzata questa tecnica, e credo che dopo questo episodio così eclatante, insomma così in un palcoscenico importante, si arriverà a un cambiamento di regola, più che altro per tutelare la spettacolarità del gioco, che deve essere mantenuta per avere un appeal nei confronti degli spettatori e anche delle televisioni. Sì, poi c'è questa immagine meravigliosa dei due giocatori dell'Inghilterra che vanno dall'arbitro e l'arbitro gli risponde: chiedete al vostro allenatore. Perché i giocatori appunto chiedevano all'arbitro cosa potevano fare, a quel punto l'arbitro ovviamente gli ha detto: guarda, io sono qui per far rispettare le regole, è quello che devi fare, devi chiedere al tuo allenatore. Per cui insomma un siparietto anche simpatico in quel momento lì, ma rugby, insomma, il rapporto tra arbitri e giocatori nel rugby è particolare anche per questo, perché si creano anche delle chiacchierate molto simpatiche durante sì, mi è incuriosito anche che gli italiani avessero preannunciato la sera prima all'arbitro che cosa avrebbero fatto. Sì, cosa impensabile nel calcio. No, è usanza nel nostro sport confrontarsi con l'arbitro e anche incontrarlo il giorno prima della partita per fargli delle domande, o l'arbitro addirittura mette in guardia le squadre da alcuni loro comportamenti che possono essere penalizzabili. Per cui devo dire i rapporti con l'arbitro sono sempre molto aperti prima e anche durante l'incontro, per quello che riguarda ovviamente il capitano. Si cerca di collaborare, l'arbitro partecipa a numerosi allenamenti anche delle squadre nazionali ma anche di club, e credo che questa sia un qualcosa probabilmente di peculiare al nostro sport che debba essere implementato e assolutamente mantenuto. Si potrebbe provare anche da qualche altra parte. Grazie Marco Bortolami. Grazie a voi, buona serata. Grazie Marco. Gianpaolo da Bergamo. Pronto? Eccoci. Sì, salve. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Io non sono tifoso, però certe cose si ricorderanno per tutta la vita. 82, una terrazza, una colonia estiva, 300 bambini davanti a una televisione minuscola. È stata una cosa fuori dal comune. Lei si immagini 300 bambini urlanti davanti a una televisione. C'è anche chi ricorda di essere stato in America, a Washington, all'università, e gli americani portarono in trionfo gli italiani festeggiando e dosannando, e non giocavano nemmeno a calcio, ricorda questo amico che si chiama Mike. Abbiamo un paio di minuti, non di più. Marco Belinazzo. Eccoci. Allora, restiamo sugli aggiornamenti del closing che sta facendo discutere parecchio in questi ultimi minuti. Allora, le notizie le abbiamo date prima, no Marco? Yongon Lee, unico proprietario, e soprattutto non c'è più la certezza che ci siano tutti i soldi maledetti e subito. Sì, i soldi non ci sono tutti subito, non so se saranno recuperati entro 72 ore. E quindi quello a cui sta lavorando è l'ipotesi di una rateizzazione, ovviamente che comporterebbe anche un rinvio di quella che è esattamente la scadenza in cui poi c'è il passaggio di proprietà, perché il passaggio di proprietà occorre naturalmente che ci sia il versamento dell'intera somma. Tanti dubbi che come dire, lascerebbero un'impressione più negativa rispetto a quello che è possibile esito di questo closing, se non fosse che, ricordiamo, ci sono comunque 200 milioni già nelle casse della Fininvest, e quindi dobbiamo continuare a credere, le parti ci continuano a rassicurare sul fatto che alla fine si arriverà a questo benedetto closing. Ma possiamo chiamarla proroga eventualmente? Eventualmente sì, perché sai, c'è una rateizzazione, è un accordo per dilazionare il pagamento, automaticamente ci sarà anche un rinvio delle scadenze, una proroga delle scadenze, posto che il 3 marzo da comunicato delle stesse parti era stata indicata come la data definitiva, e quindi rispetto a questa data poi si dovrà capire quanto il Sino Europe di Yon riusciranno a versare subito e quanto la Fininvest accetterà di ricevere in un secondo momento. Intanto restiamo alla notizia ufficiale della cancellazione dell'assemblea prima chiamata del 1 marzo. Resta ovviamente convocata quella del 3 marzo. Grazie Marco. Grazie a voi, a presto. A domani per tutti gli aggiornamenti. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Edoardo Lavezzari in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Appuntamento domani dopo il GR delle 14.